fino alla rivoluzione copernicana di Urbani, i beni culturali erano invendibili, se non a condizioni ben definite e molto difficili. Adesso, salvo alcuni beni archeologici, facciamo un esempio, il Colosseo, la Torre di Pisa, che sono tutelati per legge, tutti gli altri, tipo la Galleria Vittorio Emanuele di Milano o la Galleria Colonna di Roma, sono vendibili se non entra entro 120 giorni il parere delle sovrintendenze. Quindi cosa vuol dire? Se dopo 120 giorni le sovrintendenze non esprimono parere perché per qualsiasi motivo, o perché sono oberate di lavoro, o perché non fanno in tempo, o per tantissimi altri motivi, scatta il silenzio assenso. Poi si entra nel merito del rapporto fra lo Stato e le regioni, perché allo Stato rimane la tutela, mentre alle regioni rimane la valorizzazione. Questa è la scusa per cui Urbani ha giustificato il fatto che le sovrintendenze passassero da un parere vincolante nel caso di sanatorie, di concessioni in sanatorie, di abusi su aree vincolate o aree protette. E lui l'ha motivato con il fatto che le regioni e il Ministero hanno e avrebbero avuto sempre più contenziosi nel futuro. Noi non siamo convinti di questa cosa. Quindi la Legambiente, anche insieme alle altre associazioni ambientaliste, stanno continuando la battaglia che sta passando da una battaglia legislativa. Quindi quando abbiamo avuto le varie riunioni con il Ministero, per dire poi in pratica una e un'altra in commissione dove nessuno ci ha fatto mai vedere il testo definitivo, perché questo testo cambia di giorno in giorno, sembra che sia cambiato anche dal momento che è andato dal Parlamento alla Presidenza del Consiglio per essere promulgato, passeremo, come abbiamo già fatto altre volte, a iniziative sul territorio, nello stile classico dell'ambiente.